Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Un, dos, tres, un pasito pa'lante Maria, un, dos, tres, un pasito pa' atrás. Tevez al limite, allarga adesso per Vidal, nel fondo Vidal, il cross tirante, Tevez! Di nuovo Carlos Tevez, 2-0 per la Juventus, per la seconda volta, la pace. Al limite, fa passare il pallone Llorente, spalla alla porta Llorente, eccolo il gol di Fernando Llorente, mancava da 5 partite, come l'andata, la sblocca lui, Juventus Livorno 1-0. Prova a girarsi Quagliarella, Quagliarella, palo incredibile. Breve. Parte Pirlo, rete, un gol fantastico, 44esimo, Pirlo sul calcio di punizione, Juventus in vantaggio. 1-2-3, alla fine è arrivato lo scudetto della Juventus, è arrivato in una domenica bestiale, in un fine settimana bestiale, forse la domenica sbagliata, ammesso che esista una domenica sbagliata per vincere uno scudetto, per coronare una stagione da record. È arrivata questa vittoria nella domenica in cui la Juventus non scendeva in campo, quindi si è vista recapitare lo scudetto in ritiro, è arrivata nella domenica in cui il calcio italiano si stava interrogando, come sta facendo ancora oggi, sui fatti di Roma, sul potere degli ultra, su come riformare un calcio che sabato sera ha toccato per l'ennesima volta il punto più basso della sua storia recente, ammesso che esista un punto più basso e che non ce ne sia un altro tra una settimana, un mese, un anno, chissà quando. Ha vinto per merito del Catania, del suo 4-1 sulla Roma. Scudetto recapitato poco prima delle 17 di ieri in ritiro, quando molti giocatori della Juventus, abbiamo scoperto, stavano dormendo. Andiamo, Obbligia, andiamo, una palla ancora lì, andiamo, andiamo, chiedo quanto manca, chiedo, autore di questo video Storari, credo, con il suo telefonino 800 24 00 24, per chiamare in diretta, 349 238 6666, per scrivere. Franco Piantanida, autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltritti in regia, Vittorio Oreggia, direttore di Tutto Sport al telefono. Ciao direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Mai visto uno scudetto non tanto recapitato in ritiro, è già capitato anche recentemente, ma recapitato a giocatori che stavano dormendo. Ieri ho visto Buffon, non mi sembrava particolarmente coinvolto nei minuti successivi alla vittoria dello scudetto, tirato giù dal letto. Si vede che l'abitudine a vincere, posso solo pensare questo. Io non sarei stato così, avessi dovuto vincere uno scudetto, però probabilmente erano insomma così tranquilli e così sicuri. Poi i dormienti erano Buffon e Tevez, quindi insomma due personaggi che sono abituati a masticare le vittorie, per cui insomma direi che rientra tutto nella logica di certi campioni che hanno sangue freddo. Il fatto che sia arrivato a causa della caduta della Roma a Catania è semplicemente perché è venute meno le motivazioni, la Roma ha ceduto di schianto, qualcuno ha detto anche ha voluto fare l'ultimo dispetto. Non lo so, io non credo che la Roma abbia voluto fare un dispetto, perché sarebbe stato un dispetto stupido. Io penso che insomma che la Roma avesse mollato un po', si era capito dalle dichiarazioni di Garcia alla vigilia, insomma ha già fatto i complimenti alla Juve per lo scudetto, che fino alla settimana prima aveva cercato giustamente, di punzecchiare, di stimolare, insomma, il suo slogan era "noi non molliamo". Invece mi pare che l'altro ieri avesse abbassato un po' le armi, e probabilmente era la sensazione che lui percepiva a pelle della squadra, perché oggettivamente io una Roma così scombicchierata, così sbalestrata, così vulnerabile soprattutto in difesa, che va a prendere 4 gol a Catania, non l'aveva mai prese, insomma mi sembra una squadra che probabilmente è calata la tensione nervosa, perché si è reso conto di aver perso lo scudetto ed è andata come è andata. Sì, è vero che le motivazioni fanno tanto, però è difficile che possano scavare un solco di 4 punti tra la prima e quella che fino a 10 giorni fa era l'ultima in classifica del campionato. Poi noi siamo un paese di dietrologi, quindi scrive Andrea da Trento, 349-238-6666, sono solo io che ieri ho visto una Roma dimessa, nel senso che sembrava volesse perdere a tutti i costi, o sono uno che pensa male? Traffico, chi lo sa? Tutti convocati. C'è chi scrive: la Serie A spezzatino ha tolto la magia al terzo scudetto, questa è Sara. Poi hai ragione, per la Juve è una stagione da record, perché è riuscita a essere eliminata in 3 coppe in un anno. Poi anche oggi tante parole sulla violenza ultra, ma come al solito non succederà nulla, poi ne parleremo, perché comunque, lo ripeto, è stato un fine settimana bestiale. Vittorio Reggia, quanti sono gli scudetti della Juventus? Sono 32, di cui 2 revocati. 32, anche se oggi Tutto Sport credo sia stato l'unico giornale sulla prima a pubblicare il numero 32, in tanti hanno preferito limitarsi a sottolineare il terzo scudetto consecutivo dell'era Conte, perché resta comunque un tema spinoso, così come quello delle tre stelle. Secondo te è giusto o no che la Juve le metta? Credo che non sia giusto che le metta, dopo la scelta che ha fatto quest'anno di non metterle, non vedo perché dovrebbe metterle l'anno prossimo. Insomma, io credo che sia un problema di contabilità, quella che non quadra. La contabilità della Juventus è diversa dalla contabilità della federazione, e io penso che poi alla fine sia giusto non mettere le stelle, insomma, per evitare poi le solite polemiche. Sì, anche perché sarebbe un po' un'incoerenza rispetto a quello che è stato detto in questi anni anche da Agnelli, quindi dal massimo esponente della società. Ho letto ieri sul sito della Juve: il primo scudetto era lo scudetto dell'arrembaggio, il secondo lo scudetto della maturità, questo è lo scudetto dell'obbligo. Ha ragione la Juve a viverlo così, o non è riduttivo? Non lo so, oggettivamente non ti so dire. Sicuramente insomma, la stagione è partita con il presidente che ha detto: vogliamo entrare nella storia vincendo il terzo scudetto consecutivo, quindi un po' di obbligo c'era, c'era anche l'obbligo probabilmente di andare un pochettino più avanti in Champions League e di chiudere in maniera diversa l'Europa League. Però anche a me piacerebbe essere Richard Gere, non lo sono. Anche perché adesso si può fare anche un bilancio della stagione, si può anche dare un voto. Io credo che la Juve meriti 10, difficile dargli meno per il campionato, però effettivamente pesa quello che è successo in Europa. Secondo me pesa anche quello che è successo poi in Europa League, l'eliminazione col Benfica, che è una grandissima squadra, però per carità, al di là dell'arbitraggio, al di là del recupero, al di là di tutto quello che è successo prima a Lisbona e poi a Torino, per la Juventus si è trattata di una presa di coscienza che serve qualcosa di più per essere competitiva in Europa. Sono assolutamente d'accordo con te, io credo che l'anno scorso la Juventus sia arrivata ai quarti di Champions League anche con un briciolo di fortuna, perché ha incrociato il Celtic e poi è stata, insomma, regolata da uno straordinario Bayern. Quest'anno, insomma, non si può chiudere gli occhi di fronte al girone eliminatorio di Champions League, e comunque non si può non considerare che la semifinale di Europa League è stata deficitaria. Detto questo, io ritengo che la stagione della Juve sia straordinaria, anche perché forse arriverà a stabilire il record dei 100 punti in campionato, quindi è tantissima roba. Penso, come hai detto tu, che non solo i tifosi ma i dirigenti, l'allenatore, si siano resi conto che con questo organico, che non dimentichiamoci, rispetto all'anno scorso, ha un Tevez e un Llorente in più, non basta per vivere l'Europa da protagonisti e non da comprimari. Sì, servono, cosa serve? Serve quella decina di giocatori nuovi, freschi, di cui si è scritto in questa settimana? Serve probabilmente ciò che vuole Conte, insomma, mettere un punto, andare a capo, non lasciarsi trascinare dal vento della riconoscenza, ma aprire le finestre, cambiare, anche magari a costo di sacrificare qualche giocatore importante, ma cambiare radicalmente. Io credo che Conte a questi giocatori non possa chiedere di più, li abbia veramente spremuti come dei pompelmi e oltre non possa andare. Sono giocatori che hanno mille battaglie nelle gambe e probabilmente l'errore da evitare è quello di insomma non considerare questo mini ciclo, non dico finito, ma verso l'epilogo, e quindi provvedere immediatamente al mercato di... Ma resta o no Conte? Resta anche se non rinnova? Resta con la prospettiva di un contratto che va a chiudere? Io credo che non sia un problema di rinnovo, credo che il problema di Conte sia un problema di progetto. Se Conte viene accontentato, detto male, insomma, se c'è un ricambio della Juventus, io penso che Conte sia il primo a voler restare, perché l'obiettivo di Conte è quello di vincere la Champions League con la Juventus. Se invece per una serie di ragioni aziendali di un certo tipo, insomma, non si potesse operare questo tipo di ribaltone, di rivoluzione dell'organico, io penso che Conte si possa prendere un anno sabbatico per studiare le lingue, imparare l'inglese e poi magari andare a tentare l'avventura all'estero. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie a Vittorio Reggia, direttore di Tutto Sport. Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao ragazzi, come va? Benissimo, stiamo celebrando lo scudetto della Juventus, perché finalmente proviamo a parlare anche di campo, anche sì, se perché, poi... perché il vero paradosso di questo weekend, le vere vittime di questo weekend sono state, vittime fino a un certo punto, sono state Juve e Napoli che hanno vinto ovviamente la Juve il campionato, il Napoli la Coppa Italia, e in questo weekend si è parlato pochissimo di tutto questo, si è parlato di tutto il resto, ma non è... Ti ho detto, la domenica sbagliata, se esiste una domenica sbagliata per vincere uno scudetto da record, beh, la Juventus, se esiste questa domenica sbagliata, ci è capitata in mezzo, però non va dimenticato che l'ha vinto questo scudetto. Ma assolutamente, e va detto, perché poi qualcuno è pronto a dire, siete voi giornalisti, no, in questo momento è chiaro che tutti vogliono sapere, capire, c'è l'impatto emotivo di quello che è successo, siamo ovviamente preoccupati per le condizioni di questo ragazzo, per il decorso clinico, insomma è ovvio che in queste ore ci si deve occupare di questo, quindi non ci sono discussioni, detto questo però poi insomma ci deve essere spazio anche per la giusta celebrazione della Coppa Italia e soprattutto il campionato che la Juve ha dominato. Ti faccio sentire Marotta ieri sul futuro di Conte. Abbiamo detto che ci saremmo incontrati, il presidente, l'allenatore, noi, insomma, tutti a bocce ferme. Oggi queste bocce si sono fermate un po' prima, non inaspettatamente, però diciamo che con calma nelle prossime settimane avremo modo di confrontarci. E cosa posso dire? Che siamo orgogliosi del nostro allenatore, che reputo uno dei migliori al mondo. L'ho detto prima, non solo per quelli che sono i suoi principi calcistici, che sicuramente sono molto importanti, ma soprattutto come sa gestire e motivare il gruppo. E quindi è un patrimonio della Juventus ed essendo un patrimonio cerchiamo di tenerselo stretto. E quindi la Juve cercherà di accontentare Conte. Io ho l'impressione che, carissimo Pier, quest'anno il potere contrattuale di Conte sia diverso, sia minore rispetto a quello di un anno fa. Forse sì, perché questo doveva essere l'anno della grande svolta anche a livello internazionale, non c'è stata, anzi, devo dire la verità, io avevo considerato i quarti di finale dell'anno scorso contro il Bayern, oltretutto vincitrice della Champions, come un buon risultato l'anno scorso. Quest'anno, dopo tre anni, abbiamo visto il primo vero fallimento della gestione Conte, che è stata l'Europa, che chiaramente non toglie nulla invece al trionfo in campionato, insomma vince il campionato per il terzo anno consecutivo. Che voto dai alla stagione della Juventus? Tutta compresa, quindi campionato, coppe? Gli do, non lo so, da 1 a 10 gli do 7,5-8. 7,5-8, beh, significa che per una squadra che ha vinto lo scudetto probabilmente andrà oltre quota 100, significa che quello che è successo in Europa pesa come una bocciatura, se fa media. Se vinceva la Champions davo 9, se avesse vinto l'Europa League potevo dare 8,5-9, e mi sembra, insomma, adesso non lo so, non mi sono se vinceva la Coppa Italia non faccio il professore, quindi non saprei dirti, non saprei dirti. No, credo che ci sia, ma questo lo sa, ma che li considera Juve, dai, cioè adesso c'è sempre questa cosa qui. Sì, sono stati più spietati loro nell'analisi della stagione. E qua, insomma, è una squadra che in campionato ha fatto qualcosa di incredibile, perché ha vinto lo scudetto per il terzo anno consecutivo, perché sta battendo tutti i record di punti, perché è riuscita a vincere con anticipo il campionato contro una squadra che ha fatto dei numeri da record, perché pure la Roma ha fatto dei numeri da record, e la Juve è riuscita a essere talmente forte che riesce a vincere il campionato con due giornate d'anticipo. E quindi questo è incredibile. Detto questo, poi insomma, in Europa qualcosa è successo, in Europa si bisogna andare, tutti ci si confronta, e lì è stato un fallimento, poi anche con delle sfighe, secondo me. Io ne ho parlato mille volte, la Juve non è stata fortunata in Europa, soprattutto in Champions League, però insomma non è stato fortunato neanche il Napoli, che ha fatto un girone meraviglioso. Sì, però se non riesci a battere Copenaghen, il Galatasaray a Torino, probabilmente te le sei meritate. Ti faccio sentire invece Marotta su Pogba, perché Pogba da un po' di tempo, ma a maggior ragione da oggi in poi, sarà il tormentone che accompagnerà l'estate dei tifosi della Juventus. Oggi Marotta ha ulteriormente precisato che a breve tenteranno di far firmare il rinnovo a Pogba. Io personalmente ritengo che la Juventus, se davvero arriva un'offerta da 40 milioni veri in su, Pogba lo deve cedere, e con quei soldi, che sono tutta plusvalenza, costruire una squadra giusta per vincere in Europa. Però ti faccio sentire Marotta ieri. L'intenzione e la fermezza di voler allungare il contratto, e quando si parla di allungamento lo si fa anche e soprattutto per tenerlo. Poi, ripeto, non abbiamo approfondito più di tanto, dobbiamo ritrovarci per abbozzare dei numeri, ma io credo che la disponibilità dimostrata dai suoi rappresentanti e soprattutto il fatto che Paul è un ragazzo intelligente e capisce sicuramente che questo è il suo habitat naturale per poter crescere e migliorarsi ancora professionalmente, ci dicono che in linea di massima non si può assolutamente immaginare una sua partenza. Davide da Verona scrive: la Champions la vince uno solo, anche il Paris Saint Germain e il Bayern allora hanno fallito. Però il Bayern, secondo me, sì, in Europa, visto dove partiva. Della Juve non è perché non ha vinto la Champions. Vincere la Champions sarebbe stata un'impresa incredibile. Sì, c'è anche una via di mezzo, finire a dicembre. Per esempio è stata quella dell'anno scorso. Io l'anno scorso, l'ho detto un minuto fa, penso che la Juve abbia avuto un ottimo cammino in Europa, è arrivata nei quarti di finale ed è uscita contro il Bayern meritatamente, ma insomma poi abbiamo visto cosa ha fatto il Bayern prima al Barcellona e poi al Borussia Dortmund. Quindi io credo l'anno scorso in Europa la Juve abbia fatto molto bene. Quest'anno no. Secondo me questo lo sa pure Conte. Cioè io credo che poi i giocatori, i protagonisti, ma anche noi, se uno fa una brutta telecronaca lo sa, non è che ci si può tanto prendere in giro. Se uno sbaglia a scrivere un articolo, se non gli viene bene se ne rende conto. Insomma, allo stesso modo Conte sarà il primo a essere profondamente incazzato per come è andata in Europa, no? Sì, e sulla questione Pogba, secondo me, io sono d'accordo con un ascoltatore che scrive: se la Juve è una società seria, propone a Conte un piano con obiettivo primeggiare in Europa in 3 anni, e secondo me gli dice, ad esempio, Pogba si vende, poi insieme a te costruiamo la squadra proprio usando i soldi di Pogba. Convocati 800 24 00 24. Oggi abbiamo detto il giorno delle mille verità su quello che è successo sabato sera all'Olimpico di Roma e a Roma intorno allo Stadio Olimpico. Intanto c'è il tifoso ferito Ciro Alfano, condizioni che sono sempre gravi ma stabili. È stato arrestato Pierre, perché la polizia ha ricostruito, anche lui ha partecipato alla rissa. C'è un amico che scrive: Franz, se questo Ciro è indagato quale compartecipe, anche se ferito, da me non avrà alcuna commiserazione come quella che voi state manifestando. Noi non stiamo manifestando commiserazione. Io, se c'è una persona che sta male nel mondo, chiunque essa sia, gli auguro di guarire. Mi rendo conto che è un punto di vista impopolare, no, ma secondo me è il punto di vista giusto, Pier. La voglia, e non è questo il caso, insomma, adesso, almeno perlomeno c'è una presunzione di innocenza, ma voglio dire, anche estremizzando, no? Però io in questo momento c'è un ragazzo di 26 anni che sta male e non posso non tifare per lui. Poi è chiaro che bisogna capire che è successo, ed è chiaro che se ci sono delle sue responsabilità pagherà, e io sono anche perché paghi in maniera lui, come quelli che l'hanno aggredito, che paghino in maniera esemplare, ci mancherebbe altro. Però insomma, di fronte di fronte alla morte, di fronte alla malattia, sì, di fronte è un distinguo che si fa fatica a fare. Poi i parenti dicono lui è vittima di un agguato, c'è anche la doppia verità, se sia stato l'agguato di un singolo, intanto certo. L'ultra romanista dice non sono stato io a sparare, oppure se sia stata un'azione combinata, ho l'impressione che avremo da leggere, da sentire versioni ulteriori rispetto a quella che ieri, e ne abbiamo parlato Pier per tutto il pomeriggio, è stata data prima dalla questura e poi dal ministro dell'interno, con questo rispondendo anche a chi scrive il ministro e la questura hanno chiarito il caso è finito, magari andasse così. 800 24 0024 Giacinto da Ravenna. Giacinto, sono qui, eccoci, posso scendere in campo? Prego. Certo, certo. O vado in panchina? No, in campo. Scarpini. Non sì. Con le pantofole però, cioè è pronto, no, è convocato, no, quindi scende in campo. Volta, esatto. Prego. Niente, due cosette così. Una è che nei derby Milan-Inter, da che mi ricordo io, succede mai tutti questi casini che succedono da altre parti. E questo è un dato di fatto incontrovertibile, quindi Non lo dico per fare l'avvocato. Questa è la prima cosa. E ci fu il famoso petardo che volevo dire, ragazzi. Un momento, Giacinto. Un momento, Giacinto. L'ipotetica bilancio di fine campionato, quando si fanno che sì. I discorsi, errori a favore, errore contro e compagnia bella, penso che alla fine si bilancino più o meno. Però vorrei da voi un'opinione: se trovate nel campionato della Juventus, che è fortissima, quello che vi pare, carro armato, spalda sì, tutto. Qualche episodio a favore. Una partita sola che c'è stato un episodio che gli ha negato un punto. Tutto qui. Alla Juventus, ma sicuramente. Poi il problema è che la Juventus le ha vinte praticamente tutte, Giacinto, e quindi anche gli episodi contrari che ci sono stati spesso sono capitati in partite che la Juventus alla fine ha vinto, però per intenderci io ricordo Fiorentina-Juventus 4-2, la Juventus ebbe da protestare e non poco per l'arbitraggio, c'era un'espulsione di Aquilani e Aquilani fu graziato e si era sull'1-0 se non ricordo male o sul 2-0 per la Juventus, quindi per carità. Poi Pier, se vogliamo invece parlare del derby, perché non è vero che il derby di Milano va tutto liscio, purtroppo ci sono anche storie drammatiche. Non è che lo dico per fare il bastian contrario. Ieri sera abbiamo assistito a uno spettacolo bello e io ribadisco che non c'è niente di più triste, di più puerile adesso che dividersi e stare lì ognuno con la sua squadra a dire che noi siamo più bravi, voi siete più violenti, voi siete una razzaccia. Ecco, non è questione di razzaccia, non c'è purtroppo credo una tifoseria in Italia che non ha almeno un delinquente, e non c'è una tifoseria che è fatta solo di delinquenti. Credo che poi statisticamente fatela voi la proporzione. Qui dobbiamo capire se vogliamo risolvere tutti insieme il problema. Il problema è che il tifoso pacifico della Roma è amico del tifoso pacifico del Napoli, punto. Ci sono i pacifici da una parte e i violenti all'altra. Non è che c'è, se noi ancora una volta di fronte a tutto questo ci dividiamo in romanisti contro napoletani, laziali contro romanisti, fiorentini contro napoletani, gli juventini, la rivalità, ah queste cose succedono solo a voi, ah ma tu mi hai detto così, sì, non si va da nessuna parte, Vesuvio, ah ma ti hanno dato la squadra, due coglioni, una roba l'hai detto. Siamo in una situazione patologica. Dovevamo mettere un punto 57 da Ferugli fa, adesso vediamo se questa è la volta buona per cambiare strutturalmente le cose, non con i palliativi che hanno fatto in questi anni, rendendo al tifoso sempre più complicato l'accesso allo stadio. Io non ho 2 euro da scommettere, Pier, ma non li scommetterei comunque, sul fatto che si metta un punto, secondo me fra qualche giorno poi si ripartirà con i soliti discorsi e alla fine cambierà poco, io sono abbastanza convinto. Approfitto, faccio l'autopromozione, stasera c'è anche un'intervista a Renzi esclusiva a Tiki Taka e lo coinvolgeremo su questo, cioè al di là della sua esperienza di tifoso che l'altro giorno era allo stadio, voglio capire, visto che lui adesso è presidente del consiglio e che è un appassionato di calcio e che già a dicembre a Tiki Taka aveva espresso la sua ricetta sulla violenza negli stadi, se avrà la voglia e la forza di fare veramente una rivoluzione che possa consentire alle persone per bene di andare allo stadio tranquillamente e di risolvere le collusioni e i problemi che ci sono. E non è con la testa del tifoso, e non è costringendo i tifosi a fare fino a l'una di notte nel settore ospiti, spesso anche di fronte a delle provocazioni e a delle condizioni assurde, perché ribadisco che chiunque di noi, e noi ringraziamo Dio che andiamo allo stadio in tribuna stampa a lavorare, cioè abbiamo magari anche il parcheggio, ma chiunque di noi vive, come tanti nostri amici ascoltatori, l'esperienza di andare allo stadio, di andare in trasferta, sa che il tifoso è un eroe, uno che oggi va ancora allo stadio a prendere l'acqua, a prendere la pioggia, a rischiare, è un eroe. E non può essere così, altrimenti moriamo tutti, finisce questo gioco e non va bene. Non va Angelo, bene. Angelo da provincia di Bergamo. Buona giornata, la ringrazio. Dunque, quello che è stato detto adesso, no, che ieri sera può essere stata una bella partita. No, ieri sera è stato un bello spettacolo, spettacolo. Credo che Pier parlasse del contesto, perché la partita la lasciava stare. Sì, io sono tifoso interista, sì. A me queste cose qua non vanno. Io vado per vedere la mia squadra che vinca, che deve vincere, non perdere in quel modo. E poi adesso ora è abbastanza che il presidente, 4 anni fa abbiamo fatto il triplete, lì dove ha sbagliato Moratti, doveva vendere quei giocatori che doveva vendere e costruirsi un'altra squadra. Ma è possibile che noi interisti dobbiamo sempre soffrire e farsi prendere in giro dagli altri tifosi? Dopo succedono quelle violenze che abbiamo visto sabato sera. Sì, secondo me non c'entra nulla col triplete e con Moratti, no, però no, cerchiamo di non mischiare le due cose, Angelo. Poi mi sarebbe piaciuto sentirla il 23 maggio del 2010, se le avessero detto vendiamo Maicon, Lito, Cambiasso e tutti gli altri, probabilmente avrebbe avuto un'idea diversa. Pier, Angelo, come tanti tifosi, anche i tifosi della Juventus oggi, perché poi il discorso che facevamo prima con Vittorio Reggia, Conte ha bisogno di cambiare mezza squadra, però non è facile. No, assolutamente, non è facile per niente. La gratitudine sappiamo che spesso è un nemico, no? della lucidità, della razionalità, nel senso che fortunatamente i calciatori sono uomini. Sono uomini e come tali ovviamente vengono trattati con rispetto, con affetto e anche con gratitudine, meno male, anche se poi spesso la storia delle squadre dal punto di vista del mercato si complica proprio perché dopo le grandi imprese non si ha il coraggio di salutare, e questo è successo all'Inter, è successo anche alla Roma del 2001, tanto per fare un esempio, no? Di una squadra che prolungò dei contratti che forse potevano essere prolungati. Sì, diventa impossibile tagliare così, insomma, con il passato. Fa parte del calcio, è anche molto impopolare, no? Dire... Ma ripeto, io voglio vedere il 23 maggio 2010, atterrati dall'aereo con la Coppa dei Campioni in mano, Moratti che dice, sapete cosa vi dico, Maicon, Milito li vuole Mourinho che va al Real Madrid, e già Mourinho che se ne andava fu uno shock, magari vendiamo anche Cambiasso, Giulio Cesar, Zanetti alla sua età e rifondiamo la squadra. Secondo me Moratti non usciva da San Siro, lui e la sua Champions League appena vinta. Certo. Credo che poi il discorso sia questo, a posteriori è facile ricostruirlo. Fabrizio dalla provincia di Pesaro, Pesaro Urbino. Sì, buongiorno. Prego. Senti, io chiamo per questo, ho visto nei giorni scorsi, anche oggi, alcune trasmissioni che parlavano di fatti accaduti nella finale Coppa Italia. Sì. E mi sembravano delle trasmissioni registrate un anno fa, 3 anni fa o 5 anni fa, cioè sono gli stessi commenti, le stesse promesse di intervenire e poi fra 2 o 3 giorni nessuno più parla, e fino alla prossima, purtroppo la prossima disgrazia che accadrà. Io credo che se non si riesce a risolvere questo problema, o è un discorso di incapacità, cioè chi deve prendere decisioni non è capace di decidere nulla, oppure c'è, cioè, peggio, una convivenza con questi criminali che a qualcuno sta bene che le cose continuano così. Sì, le leggo cosa ha detto oggi Malagò, presidente del CONI. È imbarazzante la reiterazione di quello che avviene negli stadi, situazione in fotocopia di quanto accaduto anni fa, significa che non si è fatto nulla o lo si è fatto male, ognuno dice di aver fatto il proprio dovere, ma se così fosse non saremmo a questo punto. Poi c'è anche il commento di Prandelli, Pier, ma te lo risparmio. Pier. No, abbiamo curato una malattia grave con l'aspirina, questa è la mia e questa cosa alla fine veramente finisce per danneggiare i tifosi, finisce per dare alibi ai violenti, per fargli fare quello che vogliono e per essere veramente invece così, complicare ulteriormente la vita dei tifosi, che secondo me sono veramente la vera parte lesa. Io in questa storia qui ci vedo, al di là insomma di chi in questo momento sta male, bisognerà capire che cosa è successo, ma io ci vedo tantissime vittime. Le vittime sono i tifosi che hanno passato una serata irreale, le vittime sono ovviamente quel pompiere che è stato colpito dall'oggetto, tutti i bambini che hanno avuto paura in una sera come questa, il Napoli che oggi non ha potuto, praticamente non ha potuto festeggiare, sono due giorni che si parla di altro, la Juve indirettamente che avrebbe tutto il diritto di festeggiarsi il suo scudetto da record, e in queste ore si parla di... Sì, trova i giornali divisi in due, però Pier, io sono cattivo e non te lo risparmio il commento di Prandelli. Prima o poi ci sarà qualcuno che ci fermerà, perché noi siamo così come italiani, purtroppo è brutto dirlo, ma abbiamo bisogno di toccare il fondo, abbiamo bisogno di essere forse governati, indirizzati, e poi riusciamo per anni a essere forse anche i migliori. Tutti convocati. Ecco, ho detto prima, arriverà qualcuno e ci dirà di star fermi, perché non siamo capaci di autoregolamentarci, non siamo capaci di essere decisi in fare delle cose, non so, devi tagliare certi cordoni, li devi tagliare, punto. Cioè, mi sarei aspettato, non so, un annuncio da parte dello speaker che spiegasse a tutto lo stadio, non soltanto a una frangia di tifosi, cosa stava succedendo, cosa si stava decidendo. Sì, tutto giusto, poi Prandelli però ha anche detto il problema è un problema di tutti e la strada è quella del dialogo, ma quale dialogo? Non lo so, questo lo dico io, mi sembra che i tempi siano maturi per tagliare quei cordoni, ma non si tagliano col dialogo, oppure no, ma si tagliano, si abbiamo tagliano ricominciato a parlare di dialogo, di cultura. Io ribadisco un concetto che mi rendo conto è una delle cose più indigeste, ma io lo dico, io penso che l'altro giorno la gestione dell'ordine pubblico allo stadio, dopo i fatti drammatici del pomeriggio, diciamo dalle 21:20 in poi, la gestione sia stata una gestione di buon senso, perché l'unica possibilità che c'era di evitare altri problemi, stante quella situazione lì, era di andare dai leader della curva che in quel momento stava lanciando i bomboni, e c'era da chiedersi perché avessero i bomboni. Questa è una domanda abbastanza interessante. Sì, come fosse una novità. Quindi questo è un problema, è una stortura, è una cosa sulla quale bisogna agire da subito. Ma in quel momento lì, secondo me, la situazione sarà gestita normalmente. Poi è chiaro che vedere quella quell'informativa, chiamiamola come ti pare, sotto gli occhi di tutti, con le massime cariche dello Stato, con quello che aveva la maglietta che inneggiava Speziale, su questo non ci sono dubbi che sia stato un pugno, però così come fin dagli anni 60 nelle manifestazioni di piazza c'è il servizio d'ordine che controlla i comportamenti dei manifestanti, lì c'è un servizio d'ordine, quindi se in quel momento lì sei di fronte a una situazione esplosiva, con la notizia che c'è un tifoso che sta morendo, che è stato aggredito, e c'hai 20.000 persone che sono pronte a lanciarti di tutto, tu inevitabilmente, se non vuoi far esplodere la situazione, con questi qui ci devi parlare. Quindi io trovo che di tutta, al netto delle ipocrisie, quella è stata la cosa alla fine più normale che dovesse succedere. Certo, è avvenuta in diretta TV, è avvenuta sotto gli occhi dei rappresentanti dello Stato, questo chiaramente è un colpo. Il problema alla radice è perché i tifosi hanno sempre nel loro kit da trasferta, non tutti ovviamente, le bombe, i coltelli, sì, e perché il mio vicino di casa entra senza tappo della bottiglietta e loro riescono invece ad entrare? Ma queste sono domande che ci facciamo da anni, Pier, dai, è anche diventato secondo me stucchevole, detto che evidentemente bisognerà partire da qui. Questo però è stato un weekend particolare anche per qualcosa che è successo ieri a Torino. Noi abbiamo convocato Giampaolo Ormezzano, collega, cuore granata, credo spezzato ieri. Giampaolo Ormezzano, ciao, buon pomeriggio. Evviva, sì, spezzato. Spezzato perché ci siamo comportati attraverso la solita esigua minoranza, si dice sempre così, pochi che non hanno niente a che fare, però ci sono sempre e rompono sempre. Ci siamo comportati come, io direi come juventini qualsiasi, quelli che mettono le striscioni su Superga. Ecco. Ve li faccio sentire perché. A livello basta infamità, ecco. È successo ieri allo stadio Filadelfia, quello che resta dello stadio Filadelfia, la commemorazione per la tragedia di Superga, 65 anni, a un certo punto va sul palco il sindaco di Torino, Fassino, noto juventino. Allora, il sindaco, come dicono questi qua davanti, gobbo di merda, è il sindaco che costruisce il Filadelfia, va bene così, ecco. Questo è la cosa che conta, che noi qui ricostruiremo il Filadelfia. Oh, un bel ambiente, Ormezzano. Scusate, sì. Io ho inanellato una cinquantina di no prima che mettessi in onda questo, perché partite da un errore. Non era la commemorazione di Superga, era l'annuncio del rifacimento del Filadelfia, fatto al Filadelfia Poi si sceglierà tanta con il 4 maggio. Sì, quindi se qualcuno sospetta che... Non fosse una nota ideale, chiedo scusa, facendo andare avanti, che non fosse una nota ideale, è proprio il fatto che contemporaneamente la Juventus diventava campione d'Italia. Quindi, no, era la ricostruzione decisamente annunciata dal sindaco di Torino. Io sono amico di Fassino, so benissimo che è gobbo, come io sono non gobbo, lui lo sa, ci stiviamo, non ci picchieremo mai per questo, eccetera. Ieri, fino a che non ha perso il senno, piovevano, io ero vicino a lui, piovevano bottiglie, pietre e insulti, fino a che non ha perso il senno si è comportato perfettamente, poi ha sbavato di un briciolino, lui stesso il primo a lavare i carceri. Sì, perché poi c'è questo video che Pier lo immortala, il sindaco di Torino, mentre mostra ai tifosi del Toro che lo stanno contestando e che l'hanno costretto a scendere dal palco, mostra il dito medio. Pier, bisogna vedere cosa hanno mostrato loro a lui prima. No, per carità, l'abbiamo anche sentito. Pierluigi, il primo a ravvalicarsi di Fassino, sia ben chiaro, ha sbagliato, lo sa, che struttura, però continua felicemente per la città a fare il sindaco, una persona per bene, competente ed esperta, e juventino, ma non è un vieco juventino di quelli che espongono striscioni sulla Ferga. E ci mancherebbe, ecco. No, ma ce ne sono. Sì, no, ce ne sono, ma dico, ci mancherebbe che il sindaco di Torino mettesse striscioni su Superga e cose simili. No, mi sono spiegato male. Non appartiene a quell'etnia, ecco. Certo, Pier, dimmi cosa pensi. C'è stato un momento a Roma, lo sappiamo molto bene, in cui Walter Veltroni ha aiutato, e credo che non sia un mistero, Francesco Totti a uscire da un certo tipo di diciamo così confusione mediatica che aveva in quegli anni, e ne ha certamente contribuito a migliorare l'immagine, a far venire fuori la simpatia naturale, perché era il sindaco della città, voglio dire, e credo che avesse il dovere di aiutare Roma e Lazio in quegli anni, essendo quelle due grandi aziende culturali di quella città. Credo lo stesso discorso riguardi Torino in generale. Io penso che anche qui bisogna avere tutti una fede più alta, che è la fede in questo gioco. La fede è nel calcio, la passione è nel calcio, finché noi non usciamo da questa cosa qui non risolveremo mai i problemi. Io conosco ex giocatori della Roma, con i quali parlavo l'altro giorno, che vorrebbero essere invitati come fatto culturale nuovo alla festa che ci sarà il 12 maggio per i 40 anni dello scudetto della Lazio del 1974. Se questa cosa succederà sarà un bellissimo. Finché non li vedo con i miei occhi non ci credo. Però il presidente Agnelli, accolto con rispetto, ovviamente con rivalità, con sfottò alle celebrazioni per Superga, e vedrò magari il presidente Cairo andare al ricordo per le vittime dell'Aisel, quello sarà un bel giorno. E mi sembra, posso dire una cosa, mi sembra assurdo, perché io non penso che siamo tutti così deficienti, mi sembra una cosa talmente normale, talmente logica, capire che esistono due piani, il piano della rivalità sportiva mentre stai giocando a pallone, della polemica, della moviola, di tutto quello che ti pare, anche dello sfottò, dell'insulto, di tutto quello che vuoi, e un piano più alto, nel quale capisci che se tu giochi a pallone e se ti emozioni nel giocare a pallone è perché c'è un altro che gioca contro di te, e per quanto quest'altro ti possa stare sui coglioni, però fa parte del gioco, perché se sei da solo, giochi da solo e finisce il calcio. Pier, fammi fare l'ultima domanda a Ormezzano, abbiamo 30 secondi, Giampaolo. 30 secondi per dire che non sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto chi ha parlato prima, c'è stata una certa confusione e mi pare eliminate da altri. Il calcio non è più uno sport e neanche un gioco, è un portaio. Quando finché non diciamo questo andiamo avanti, facciamo gli stessi discorsi che un anno fa, due anni fa, tre anni fa. È un portaio, se non abbiamo la forza di eliminarlo siamo dei porci. Quelli che vogliono primeggiare vogliono essere i primi porci. Tutto il resto è bla bla bla, va bene? Questo è il mio parere, quindi è inutile che vado avanti, grazie. A me spiace che siamo sul GR, perché ci sarebbe da stare qui ed approfondirne. Grazie comunque, Ormezzano. No, ma ringraziate che si vedono il porcaio. No, vabbè, ma noi ringraziamo, no, perché vabbè, a noi piacciono le persone che prendono posizione. State cercando di legittimare il porcaio. Noi non legittimiamo nessuno, perché avremmo necessità di legittimare. Noi raccontiamo che cosa è successo, ci proviamo a raccontarlo che cosa succede tutti i giorni, purtroppo sono anche giornate difficili. Comunque grazie Ormezzano. Pier, stai lì perché ti ritroviamo. Sono molto contento, perché era dal 2010 che non salivo più sul podio a Jerez, che è una delle mie piste preferite, e quindi era molto importante per me cercare di fare una bella gara qui nella cattedrale. Allora, il sindaco, come dicono questi qua davanti, gobbo di merda, è il sindaco che costruisce il Philadelphia, e questo è la cosa che conta, che noi qui ricostruiremo il Philadelphia. No, io sono abituato a autocaricarmi, non perché questo l'ho fatto durante tutta la mia carriera. Mi ritengo una persona vincente, i vincenti danno sempre il massimo di quelle che hanno. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Tristezza viene vissuta come un valore negativo. Il ritmo è stato un po' narcotizzante, io mi sono assopito un paio di volte. Invece va vissuta come un valore positivo. No, io sono abituato a autocaricarmi, non perché questo l'ho fatto durante tutta la mia carriera. Mi ritengo una persona vincente, i vincenti danno sempre il massimo di quelle che hanno. E poi dopo ovviamente nessuno fa le cose grandi da solo, io devo solamente ringraziare la squadra per l'impegno che stanno dimostrando durante la settimana. Ero veramente tranquillo e fiducioso per questa gara perché ho visto molto molto bene, molto centrato, molto concentrato e determinati. Poi in campo credo che il modo in cui si impegnano, in cui giocano assieme, parla per sé, non serve dire di più. Luigi Tinco ci ha prospirato molti anni. Oggi non abbiamo fatto una bella partita, l'abbiamo visto tutti. Poi il primo tempo un po' meglio, probabilmente ci tenevamo tanto a questa partita e si è speso le energie nervose prima. Secondo tempo non siamo stati noi, un po' un campionato così costellato di alti e bassi. Abbiamo fatto una bella partita secondo me col Napoli oggi, e probabilmente i derby si vivono in un certo modo, c'è chi l'ha vissuto meglio come il Milan, è stato più veemente, vincevano contrasti, erano più fisici anche in certe situazioni e hanno vinto la partita. Io non so cosa avete fatto voi ieri sera, io purtroppo ero a San Siro, ha ragione Vialli, partita narcotizzante, uno dei derby più brutti che ricordi, per pochezza, per insomma un po' la fotografia del momento delle due milanesi. Poi fanno bene i tifosi del Milan invece a godere questa mattina per una vittoria che apre delle prospettive insperate nella corsa per l'Europa League, e secondo me fanno bene anche i tifosi dell'Inter a interrogarsi su Mazzarri e sul modo in cui l'Inter ha affrontato questo derby, perché mi ha fatto impazzire ieri sera Mazzarri nel dopopartita, parlava della sua squadra come se fosse un tifoso che passava di lì per caso e non l'allenatore che aveva preparato questo derby. Pier, dove eri tu ieri sera? Ieri sera ero in redazione a lavorare sul derby. Sveglio? La partita, sì, sveglio, capace gli highlights, ho fatto anche, sì. Sì, non è stata facile. Fare gli highlights? No, restare svegli, anche fare gli highlights, arrivare a quei due minuti tempo, che servono per confezionare il servizio. Secondo tempo un po' meglio, mi hanno meritato, mi sembra che non ci sia una grande discussione. Si è aperto nuovamente il file Mazzarri, secondo me, al di là delle rassicurazioni e della conferma che è arrivata, però insomma la partita di ieri secondo me è uno spariglio per l'Inter, perché è un passo indietro molto significativo. Si può perdere il derby, ma giocare così male, avere così poca grinta e così poche idee, mi è sembrato insomma veramente molto molto negativo. Sì, prima di salutarti ti faccio sentire Seedorf, che secondo me è ancora convinto di potersi tenere la panchina del Milan. Seedorf. Dico una piccola cosa, oggi abbiamo giocato anche il modulo che piace tanto al presidente, quindi una cosa in più siamo riusciti a fare. Quindi insomma. Quindi la conta lui la formazione? No, la battuta, dai. È una battuta, sì. Ma io non lo vedo, quindi non posso vedere la sua faccia. Quello che non vedeva era Zazzaroni, come lotta Seedorf, eh? Sì, al suo stile, che è evidentemente uno stile straordinariamente elegante, però lotta per tenersi quella panchina. Anche il modulo che piace a Berlusconi, le due punte, il trequartista, il rombo. Poi, dopo il derby sì. Cambia, dopo il derby anche gli umori cambiano, quindi perché no? perché no? Io penso che davvero ci siano tutte, ancora c'è tutto da scrivere, mancano due partite e queste due partite tutto può succedere. È chiaro che se dovesse andare in Europa League, magari arrivare a pari merito sopra l'Inter, sarebbe difficile a quel punto sbarazzarsi di Seedorf per il Milan, anche se la decisione sembra già presa. Sì, io credo sia già difficile adesso, 32 punti in 17 partite, è arrivato che il Milan era 10 punti dalla zona Europa League. Adesso c'è questa cosa dell'Europa League che alla fine può essere vista come una scusa se le cose non dovessero andare, e però può diventare anche un'arma nei confronti per l'allenatore, se invece dovesse esserci una clamorosa, perché secondo me rimarrebbe clamorosa per com'è la classifica, è ancora molto difficile, ma se dovesse arrivare una qualificazione in Europa League, a quel punto sarebbe veramente dura mediaticamente supportare una decisione di questo tipo. Sì, difficile ma non impossibile, ne abbiamo parlato ieri, Atalanta e Sassuolo all'ultima, esatto. E poi invece gli altri hanno un paio di confronti diretti a partire da Lazio-Verona di questa sera. Ciao Piero! Io volevo dire una cosa in 20 secondi, perché io non ho capito prima il concetto del porcaio, posso capire che il calcio italiano sia un porcaio, però secondo me siccome la vita va avanti, cioè non è che noi da domani non ci piace più il calcio, ci occupiamo di botanica, allora se abbiamo a cuore questo gioco e se abbiamo a cuore il nostro paese, secondo me dobbiamo favorire tutte le forme perché diventi un po' meno porcaio. E l'idea, per esempio, che i tifosi del Torino e della Juve si possano incontrare su alcuni temi come il rispetto per le vittime di Superga, il rispetto delle vittime per l'Aisel, secondo me è un passo importante. L'idea che ci possano essere delle delegazioni di squadre rivali che si uniscono alla celebrazione degli scudetti alle squadre del passato, secondo me è una cosa bella, è una cosa rivoluzionaria nel suo piccolo, è una cosa che potrebbe chiarire che noi tutti amiamo questo gioco e quando succede un casino non siamo lì subito a dire la colpa è tua, la colpa è tua, sei peggio tu, tu mi stai simpatico, a te stanno tre giornate, a me due o viceversa. Finché rimaniamo così non succederà mai niente. In Inghilterra, quando c'è da celebrare e ricordare le vittime di Hillsborough, i tifosi acerrimi rivali del Liverpool, per esempio quelli del Manchester United o quelli non si sogna partecipano di fare quello che succede da noi, perché sono c'è una partecipazione perché diversa. Se un tifoso muore o una persona muore nell'andare allo stadio, moriamo tutti. Non è una frase retorica, è la verità, moriamo tutti perché potevamo esserci noi lì, visto che noi mille volte nella vita allo stadio ci siamo andati. E quindi questa normale forma di umanità nei confronti di persone che condividono la nostra passione è la cosa che dovrebbe portarci su un altro piano. Ce la faremo? Io non lo so. Tanto continua, tutti convocati però. Sì, però ti saluto leggendo questo messaggio che è strepitoso di Andrea D'Ancona, ma quale cambiamento? Io sono andato a vedere Juventus-Benfica con due biglietti fotocopiati con i nomi miei e di mia moglie. Ho esibito un documento, gli steward ci hanno fatto entrare, poi ai tornelli io sono entrato con un biglietto regolare intestato a un altro e mia moglie con un biglietto intestato a un invalido. La maggior parte allo stadio entra così, io non so se sia così, anzi io direi che la maggior parte non entra così. Però insomma questo è uno spaccato dell'Italia del calcio anno 2014. Poi vi racconteremo, Pier, mi spiace che te ne vai, ma racconteremo una storia strepitosa che viene dalla Lega Pro. Dimmi Pier, poi ti salutiamo veramente. Pier, prego. Sono problemi organizzativi ovviamente importanti, ma poi alla fine se queste due persone sono entrate allo stadio e non hanno fatto niente di male, se non incitare la propria squadra, al di là del fatto che non si entra con i biglietti fotocopiati, ma il problema finisce lì. Qui il problema è capire come risolvere situazioni ben più complesse. Stasera di Chitaga 23:15, grazie, arrivederci. Ciao Pier, buon lavoro. Ciao. Dico anche a Roberto Dall'Ode che abbiamo detto che il dito medio alzato era quello di Fassino. Abbiamo anche spiegato che il tutto succedeva in un contesto particolare. 800 24 00 24, partiamo da Varese. Flavio. Niente, buongiorno innanzitutto. Volevo un vostro parere, una vostra posizione sul fatto che se fino a poco tempo fa si è richiesto ai giocatori, c'era la polemica sui giocatori che non cantavano l'inno eccetera eccetera, io devo dire purtroppo ho visto la finale di Coppa Italia e la maggior parte, direi il 90% di tutti i VIP inquadrati non cantava l'inno nazionale, tranne pochi VIP istituzionali che lei può capire quali erano. Nessuna delle persone inquadrate, VIP inquadrati, cantava l'inno nazionale. Forse se l'avessero cantato con con impeto, con voce, con forza, avrebbero sovrastato quei fischi vergognosi che mi hanno dato tanto fastidio. Sì, io non credo che avrebbero sovrastato nulla, credo che le polemiche su chi canta e chi non canta l'inno siano polemiche sterili, lo erano anche per i giocatori della nazionale, che adesso peraltro l'inno più o meno lo cantano tutto, anzi Romulo, che andrà ai mondiali da imbarcato per ultimo, ha detto che lo sta studiando. Secondo me l'inno uno lo canta se lo sente, altrimenti può anche fare a meno. Ci sono giocatori che lo cantano e lo sentono, mi viene in mente Buffon ad esempio. Paolo dalla provincia di Milano, Paolo. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Secondo me il discorso si deve partire da un cambiamento proprio del mondo del calcio, a livello anche di mass media, di filosofia pensante, perché ogni volta che c'è qualcosa si fa molta dietrologia. A me è capitato ieri da tifoso juventino di festeggiare in modo blando e sentirmi dire da dei bambini di 5-6 anni l'avete rubato, l'avete comprato, gli arbitri di qua, gli arbitri di là. Se già dei bambini di 5-6 anni parlano così, credo che ci sia molto, molto, molto da fare per far sì che poi fra 10-15 anni negli stadi non succedano le cose che sono successe ancora sabato. Sì, partiamo dalla cultura, partiamo dalla scuola, partiamo esatto. Da tutto quello che vuole lei, Paolo. Anche ha ragione, da certi, però certe trasmissioni televisive e radiofoniche dove viene adesso al di là dei colori, al di là della Juve, il Milan, l'Inter, la Roma, quello che è, parlo proprio come filosofia. Se iniziassimo a rendere merito quando ci sono dei meriti alle squadre che vincono, come è successo quest'anno alla Juve, come è successo in passato a Inter, Milan, Roma e quant'altro, probabilmente anche certe cose a lungo andare non succederebbero più. Sì, però Paolo il problema delle curve, questo è un problema di cultura sportiva e si può anche partire dai ragazzini nelle scuole. Il problema delle curve va affrontato con la legge alla mano e applicandola, perché lo stadio non è un posto diverso dalla strada e da un supermercato, ma soprattutto applicate. A me anche il Daspo a vita fa ridere, in realtà il Daspo a vita in parte già esiste nelle norme che già oggi ci sono. Grazie Paolo. Giuseppe dalla provincia di Salerno. Salve, buongiorno. Prego. Allora, velocemente, sono un tifoso della Nocerina. Prima però sono uno sportivo, sono un papà di famiglia, andavo allo stadio con i miei figli, non sono mai stato un ultra, ho applaudito gli avversari. Ecco, adesso sentire accostare la vicenda di qualche mese fa a quello che è successo ieri mi sembra un attimo che non sia lo specchio della verità. Una cosa sola, velocissima. Tutti ormai hanno le immagini sciagurate che i ragazzi hanno fatto in campo non giocando quella partita. Nessuno però ha detto ancora che dopo 6 mesi non c'è uno straccio di accusa rispetto a quelle minacce di morte gravissime, naturalmente. Non c'è. Non è stato detto. Allora, però diciamo che non è vero che non succede niente del calcio, perché la Nocerina, 104 anni di storia, è stata cancellata in un pomeriggio. Esatto. Io credo, può darsi che ci siano le ragioni, però diciamo qualcuno si è preoccupato, purtroppo abbiamo visto, ripeto, quella sciagurata messa in scena è stata, però nessuno è andato a vedere dietro che cosa è successo, nessuno ha parlato più di persone che avevano fatto la tessera del tifoso, persone normalissime, sportive che andavano, tutto questo è stato privato, due città, perché non è una, è stata privata da un giorno all'altro, sembra che tutti i mali fossero imputabili ai tifosi della Nocerina, così non è. Chiederei solo questo e vi ringrazio per avermi fatto parlare. Sì, grazie Giuseppe. C'è un dubbio, è possibile che non è successo, che non era vero quello che è successo, perché sono 6 mesi che stiamo aspettando queste presunte accuse. La ringrazio. Giuseppe, credo che le aspetteremo ancora. Poi, ripeto, fra qualche minuto ne raccontiamo un'altra di vicenda che è avvenuta nelle serie minori, che secondo me fa un po' da copertina di questo fine settimana assurdo. Intanto saluto Sandro Mazzola, restate qui, qualche minuto ve la raccontiamo. Ciao Sandro, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a voi. Ti faccio sentire Mazzarri ieri sulla lucidità dell'Inter. Non eravamo lucidi, ripeto, l'unica spiegazione mi sento di poter dire è che siccome sapevo quanto ci tenevano i ragazzi a questa partita, hanno bruciato tante energie nervose, si è vissuto male questo derby e probabilmente si è visto in campo, insomma, non eravamo gli stessi. Si può non essere lucidi in un derby? Sì, ammesso che tu sia arrivato lucidi, fino in fondo a vederlo, perché, senza addormentarti. Perché... No, purtroppo non mi sono addormentato, ma dico che puoi non essere lucido perché sei sovraeccitato, vai al di là, non perché vai al di sotto. Si parla di un derby, la supremazia in una città, però forse oggi queste cose non contano più. Cioè, non viene più sentito dai giocatori al di là delle dichiarazioni, delle parole, magari di qualche sceneggiata fatta così, ad uso delle telecamere, ad uso dei tifosi. Ma forse dobbiamo qualche sguardo truce. I dirigenti insegnare cosa significa un derby, non lo so, io l'ho imparato a 15 anni, da un signore che si chiamava Giuseppe Meazza, due volte campione del mondo, il dio degli dei del calcio. E prima del derby ci convocò tutti e ci disse: io ho una macchia nera sulla coscienza. E noi ragazzini ci guardavamo, era impossibile, lui era sopra. Ho giocato per 6 mesi nel Milan a fine carriera, non avrei mai dovuto farlo. Era come una colpa. E allora quando vedo quelle maglie io ho un groppo alla gola, voi dovete giocare e vincere per me. Oggi il derby non è più questo. Qualcuno ha notato ieri Mazzari spesso seduto in panchina. A me non è piaciuto nel dopo partita, al di là che evidentemente era deluso dalla prestazione dei suoi, però io l'ho detto, parlava un po' come uno che passasse lì per caso e non come il responsabile di come l'Inter era scesa in campo. Ma sai, il problema è che devi andare lì, probabilmente non ci voleva andare perché aveva ancora negli occhi quello che aveva visto in campo fare dai suoi giocatori, per cui in quel momento, tra il momento in cui ti chiamano e quando vai, pensi cosa faccio, cosa dico, attacco, non attacco, e poi ha scelto la strada morbida e vabbè, ha detto cose che poteva anche non dire, lo so, però mi metto nei suoi panni, forse l'avrei fatto anch'io. Sì, zero tiri in porta, io ho letto una statistica, l'Inter non chiudeva una partita senza fare un tiro in porta in campionato da 10 stagioni, credo che questo sia un dato su cui riflettere. Oggi i tifosi sono in subbuglio, su Twitter c'è l'hashtag Mazzarri vattene che è nei trends di giornata, tu hai l'impressione che si possa riaprire il discorso sul futuro di Mazzarri, o è il fatto che lui l'anno prossimo sia sulla panchina dell'Inter che ci arrivi probabilmente con un rinnovo, perché serve anche quello per rendere più solida la sua posizione, è oramai un fatto che dobbiamo considerare acquisito? Ma io credo che andare a cercare l'allenatore adesso sia molto difficile, secondo me non sarebbe giusto. Andiamo a valutare i giocatori che hanno dato a Mazzarri, è quello che bisogna valutare. Poi se i giocatori sono molto bravi e lui non li ha saputi far giocare, allora d'accordo, diciamo che se ne deve andare, però non mi sembra che sono molto bravi. Io faccio fatica a trovare giocatori di personalità, giocatori che sanno inventare qualcosa. Centrocampo dell'Inter ieri mi sembrava, non lo so, i ragazzi di 15 anni che giocano nel campionato allievi. Quindi non capisco. E però a centrocampo c'era Hernanes che è il colpo da 20 milioni, c'è Kovacic che per tutti è un talento che ha davanti a sé una carriera luminosa, e anzi sbagliava Mazzarri a non impiegarlo. Poi è entrato Guarin, insomma l'Inter è questa in questo momento, discorso specchio che vale evidentemente anche per il Milan, perché ieri la partita al di là della noia è stata di una pochezza tecnica assoluta, ma questa credo sia la fotografia del momento delle due squadre milanesi, del calcio milanese e della crisi che le ha colpite. Sì, sono d'accordo, però capisci che quando tu hai tutti questi discorsi che tu hai fatto, hai una pochezza tecnica, hai poca inventiva, allora come fai a impostare le partite? Le imposti sulla forza fisica, è l'unica roba che ti resta. Ieri non si è visto nemmeno questo, né da una parte né dall'altra, però magari a loro andava bene anche quello. Noi avremmo dovuto fare secondo me qualcosa di più, anche perché noi avevamo davanti due che insomma in teoria, vabbè, Palacio ha dato tantissimo, quindi posso capire che adesso è qualche domenica che respiri, ma l'altro insomma dovrebbe essere un gioiello del, sì, calcio italiano, e invece si dà da fare poco, ha toccato pochi palloni, io capisco, i palloni non arrivano, li vai a prendere, li vai a cercare, vai a rubarli all'avversario, ti vieni più indietro, invece restano lì e guardano la partita. Tu l'avresti fatto fare almeno un pezzettino di partita a Zanetti nell'ultimo derby della carriera? Ma da come si era messa forse era meglio non farglielo fare, tanto l'importante è la carriera che ha fatto, l'esempio che è stato sempre, quello è quello che conta. Forse andavamo a dargli un'umiliazione, a perdere l'ultimo suo derby. Invece Seedorf, che voto dai a Seedorf? Che ma si sta tenendo condivido stretta la panchina del Milan in tutti i modi, ieri ha usato anche il modulo che piace a Berlusconi, l'ha detto, l'ha sottolineato, è un dead man walking perché pare di aver capito che a fine anno se ne dovrà andare con le buone o con le cattive, mi sembra che però elegantemente lui stia provando a giocarsi tutte le sue carte. Ma io non capisco. Mai vista una cosa così? Però mi pare che la società non abbia fatto capire, o forse l'ha detto sottovoce a qualche amico. Oggi tra l'altro Gagliani smentisce, dice che ha ancora 2 anni di contratto Seedorf. Io dico, che cosa si pretende di più da uno che è arrivato, ha vinto 5 partite su 6, e ha trovato una situazione disastrosa, adesso gli ha dato un'apparenza, non diciamo, però sai, tu il gioco lo dai se hai i giocatori, lì i giocatori anche lì ce ne sono pochi. Io credo che sarebbe un errore. Seedorf è un comandante, lo era quando era in campo e lo è anche adesso, lo sta dimostrando, malgrado tutte le critiche lui va avanti per la sua strada. Secondo me il Milan farebbe un errore a privarsi di un personaggio così. Grazie Sandro. Grazie a voi. Grazie Sandro Mazzola. C'è la borsa? C'è la borsa. Poi torniamo con quella incredibile storia che viene dalla Lega Pro. È la formazione che si aspettava? O pensava a un Balotelli con Pazzini? Anche in questo caso sono d'accordo con Sedo, lui fa l'allenatore, io faccio l'amministratore delegato. Tutti convocati. Avete ancora mezz'ora di tempo per chiamare l'800240024, ricordo migliore in campo, lo facciamo sentire alla fine, lo premiamo con la maglietta di tutti i convocati, il migliore intervento. E poi ricordo, e anzi lancio, il tema di questa settimana per il convocato per un giorno. Avete 60 secondi per registrare il vostro messaggio da mandare, 60 secondi, la ricetta per salvare il calcio italiano, 60 secondi, la mandate, convocato per un giorno. A fine settimana convochiamo uno di voi qui a fare l'opinionista a Radio 24, tutti convocati. La ricetta per salvare il calcio di Claudio De Rosa, bomber della Cavese. Purtroppo quando non hai una società alle spalle che ti porta a garantire un po' di stabilità, purtroppo succedono anche degli episodi del genere. Poi questo qua del mister è stato un episodio isolato che, come è successo, diciamo che ha fatto anche bene a fare questa decisione, perché purtroppo succedono delle cose quando non ci sta una società, succedono tutte queste cose. Quindi, però la cosa importante è che si deve ripartire, perché Cava non merita tutto questo, non merita di non avere una società, non merita di avere tutta questa situazione. Allora dobbiamo ripartire, perché sennò già è un po' troppo tardi, dobbiamo organizzare già per l'anno prossimo se si vuole fare qualcosa di importante, sennò purtroppo si dicono gli obiettivi e poi ognuno decide il da farsi. Vicenda davvero incredibile questa della Cavese. Avete sentito Claudio De Rosa, capocannoniere del girone I della Serie D con 30 gol, 9 segnati ieri in Cavese Liccata che è finita 19-5. La Cavese ha vinto contro una squadra che si è presentata in 9 con giocatori della formazione allievi. Per problemi tra la società e i giocatori non c'era nemmeno un allenatore seduto in panchina, non c'era l'allenatore dell'Icata che non si è presentato per i problemi con il suo club, non c'era nemmeno l'allenatore della Cavese che un paio di ore prima aveva pubblicato un comunicato. Io ve lo leggo. È con enorme rammarico e delusione che lo staff tecnico della Cavese rassegna le dimissioni dai propri incarichi. Tale decisione è maturata in seguito ad una richiesta avvenuta nelle ore prima della gara contro Licata da parte di alcuni tifosi di imporre nella formazione iniziale l'utilizzo di 2 giocatori nativi di Cava dei Tirreni. Questo succede anche questo nel fine settimana, lo abbiamo detto, un fine settimana da dimenticare per il calcio italiano. 800 24 00 24, Cavese Licata 19-5. Graziano dalla Spezia. Graziano. Meno male che lì almeno un po' di gol li hanno fatti, mi riferivo al derby. Sì, di sicuro si sono divertiti di più, sono rimasti svegli. Io personalmente ho girato su Real Valencia. Sono stati in tanti a farlo. Sono stati beato lei, io da San Siro non potevo, l'avrei fatto volentieri. No, volevo soltanto dire su Mazzarri sì, Mazzarri no. Mazzarri gli hanno dato una squadra, a mio modo di vedere, imbarazzante in mano, ma lui ha una grande colpa, secondo me, di non essere duttile. Ieri nel secondo tempo forse ha provato a mettersi a specchio del Milan mettendo qualche giocatore in più, giocando a 4 dietro, non se ne è accorto nessuno, almeno non ce ne siamo accorti dal punto di vista dello spettacolo e del risultato. Forse il vero limite suo è questo. Se poi pensiamo di andare in Europa, forse uno con le idee un pochino meno di bronzo, di acciaio, meno ferre sulle sue convinzioni, sarebbe meglio. Sì, a me non sembra però che l'Inter, data in mano a Mazzarri, sia una squadra così scarsa. Graziano, è vero che Mazzarri era arrivato chiedendo degli esterni e gli esterni non sono arrivati, poi è arrivato D'Ambrosio a gennaio, tra l'altro poco impiegato, però ricordo che questa squadra, anzi più scarsa di questa squadra, l'anno scorso con Stramaccioni alla fine aveva fatto più o meno gli stessi punti che ha in questo momento l'Inter di Mazzarri, due giornate dalla fine, e quella era un'Inter che aveva affrontato l'Europa League, aveva giocato 15 partite in più di questa, 15 partite, praticamente un girone di campionato, e soprattutto negli ultimi due mesi aveva giocato con ragazzi della primavera, con giocatori, con quelli che c'erano, perché gli infortuni erano tantissimi. Secondo me sono questi numeri l'atto d'accusa, se esiste un atto d'accusa per Mazzarri, non tanto che l'Inter sia una squadra scarsa, era una squadra non disegnata per vincere lo scudetto, ma nessuno lo chiedeva a Mazzarri, però probabilmente ci si attendeva di più. Ma mi pare di aver capito nella delusione di ieri di Mazzarri, e non solo di ieri, che lo stesso Mazzarri si attendeva molto di più da questa stagione. Francesco da Napoli. Francesco. Buonasera, grazie, buonasera, per avermi convocato. Allora, io sono andato a vedere la partita con mio figlio di Coppa Italia a Roma. Avrei tante cose da dire, però la cosa che mi sta più a cuore è questa, e faccio una domanda: perché devo cantare l'inno quando tutto l'anno mi danno del terrone puzzolente, mi cantano lavami col fuoco, a me e mio figlio che è allo stadio, vedo la Lega bruciare le bandiere della Repubblica Italiana, di cui io vado fiero, in Parlamento, e poi dicono a me che non canto l'inno. Perché in Italia, Francesco, siamo 63 milioni di teste, quindi ognuno ha anche diritto di pensarla come vuole, compresi quelli che bruciano le bandiere. Io non sono d'accordo, però voglio dire, è difficile pensare di essere tutti d'accordo, non accade nemmeno all'estero, Francesco. Poi lei l'inno lo canti se lo vuole cantare, non lo canti se non lo vuole cantare, per carità, faccia quello che vuole, non si sente in dovere. Sarebbe cosa buona, questo è il mio pensiero, che almeno sull'inno ci si evitasse di dividere l'inno, che è un simbolo, però evidentemente si può fare quello che si vuole. Lei l'ha fischiato allo stadio l'altra sera? Io non ho né fischiato né cantato, ero con mio figlio, siamo stati muti. Anche perché, chiudo un'ultima cosa dicendo, volevo ringraziare il sindaco Manino per averci fatto fare 3 chilometri a piedi a me con due bambini, senza scorta della polizia, perché a Saxarubra il parcheggio era pieno, ci hanno detto di andare a Tor di Quinto, dove è successo quello che è successo dopo 2 ore. Noi siamo andati a piedi nel traffico di Roma, dove qualunque persona poteva farci qualcosa, fino al cordone che era dove c'era l'ingresso. Quindi ringrazio il sindaco Marino, sì, per averci protetto. Sì, credo che il sindaco Marino non c'entri nulla, nel senso, lei ringrazia chi ha disegnato il piano di sicurezza per quello che doveva accadere sabato sera a Roma, quindi il piano di sicurezza per l'arrivo dei tifosi di Napoli e Fiorentina, che non tutto sia filato liscio, caro Francesco, mi sembra sia chiaro, al di là delle versioni ufficiali che vengono distribuite in queste ore. Però insomma credo che sindaco Marino non c'entri nulla, o comunque c'entri meno di altri. Antonio da Perugia. Antonio. Sì, salve. Prego. Buonasera a tutti. Senta, solo una in parte l'ha detto anche lei. A mio avviso, volevo ritornare sui fatti di domenica, e il fatto che in Italia non ci sia la certezza della pena, come è accaduto e come accade in tanti altri paesi. Guardiamo l'Inghilterra, come hanno risolto il problema in un lasso di tempo, secondo me, breve, il problema degli hooligans, è un segnale netto di cosa si fa in Italia. A cascata si potrebbe allargare, ma si entrerebbero in tanti altri campi. Qui le leggi ci sono, non vengono applicate, né più e né meno. Quindi oltre a questo aspetto, secondo me, segnale netto, che è espressione anche di vogliamo fare un mea culpa nostra, noi non educhiamo i ragazzi, e quindi hanno un'altra sfera, in un altro aspetto, anche a saper perdere, cogliere nella sconfitta motivi di riconoscere il valore dell'avversario. Sì, anche se credo che la cultura sportiva c'entri nulla con quello che è successo fuori dallo Stadio Olimpico, sono cose diverse. Attenzione. Però è un segnale netto, secondo me, anche quello che ha appena detto il signore poco fa, poi a cascata c'è, non il disinnamoramento dell'inno, e secondo me è un termometro netto, cioè ci dà la sensazione di quello che sta accadendo oggi in Italia. Non ne voglio fare un fatto politico, assolutamente, sì. Mi tiro fuori. No, c'è chi scrive, Gigi da Catania, sono frequentatore degli stadi, la soluzione si chiama adozione integrale del modello inglese e stop. Io non sono del tutto d'accordo, modello inglese tante cose. Modello inglese poi anche ad esempio il prezzo dei biglietti, degli abbonamenti negli stadi, la selezione quasi per classe sociale di chi va e di chi non può più andare allo stadio, perché il modello inglese è anche questo. Piero dalla provincia di Forlì, Piero. Ciao, ciao, senti, io non so quante partite si giocano il sabato e la domenica, ma penso che sia migliaia. Sì, decine di migliaia. Esatto, un fatto stupido, ignorante, quello di Roma non può infangare tutte le migliaia di tifosi che siamo, che andiamo allo stadio. Io sono di Cesena, ma è successo niente. Però quello che volevo dire sul calcio giocato, di quando non riportiamo in Italia, per me, le menti del calcio, Capello, Ancelotti, Spalletti, ci ritroviamo con allenatori, tutti, da Conte a Mazzarri, tutti, e poi ti arriva un Garcia, chiamiamolo come vogliamo, che impone un gioco mai visto in Italia, il miglior gioco del campionato. Allora, come nella industria, nella cultura, tutti gli elementi devono rimanere in Italia. Riportiamo Capello, Trapattoni, Ancelotti, Spalletti, Zaccheroni. Sì, vediamo quando avremo il budget per convincerli, perché lei sta citando tutti gli allenatori, a parte che Spalletti in questo momento è a casa e non è detto che non sia magari nel futuro del Milan. Stiamo parlando di allenatori da 4, 5, 6 milioni di euro a stagione, cosa che in questo momento i club italiani non si possono permettere. Insegnare calcio ed educazione. Grazie Piero, vi faccio sentire Andrea Agnelli pochi minuti fa. Se e quando qualcuno arriverà a poter mettere la seconda, ecco che noi anche ufficialmente potremo mettere la terza per rimarcare la differenza tra noi e gli altri. Grazie. Voi avete capito qualcosa? Quindi la Juventus metterà la terza stella nel momento in cui qualcuno, presumo Inter o Milan, che sono a 18, arriverà ad avere il diritto di mettere la seconda per marcare la differenza della Juventus. Peccato che è quasi finita. 800 24 00 24, vi do già appuntamento domani 14.05, cioè mi dovete spiegare esattamente la ragione e la razza di quello che ha detto Andrea Agnelli. Mauro da Firenze, Mauro. Sì, buonasera, mi scusi della mia insistenza, volevo solo precisare alcune cose in merito agli incresciosi episodi di ieri l'altro. Sì. Dunque, io non sono andato a Roma, non ho seguito neppure la partita in diretta TV per motivi miei, perché mi aspettavo quanto è accaduto. Ora, magari la fantasia non arrivava alla realtà, mi sarei accontentato di un pochino meno. Voglio dire, la Fiorentina è stata l'unica squadra che è stata condannata in Serie C2 per disastri bilanciati del bilancio della società quando c'era Vittorio Cecchi Cori. E risulta che delle squadre capitoline, per esempio, ma anche Meneghine, per esempio, hanno i bilanci altro che quelli della Fiorentina con Cecchi Cori. Di più, ad alcuni sono stati spalmati questi debiti su 24 anni o 26. No, però Mauro, però io capisco l'essere tifosi, però le cose bisogna dirle in maniera corretta. Per carità, che i bilanci dell'Inter non siano, mi pare il riferimento sia evidente, non siano il massimo in questo momento, è chiaro, è sotto gli occhi di tutti. Poi fino a un mese fa, due mesi fa, tre mesi fa, l'Inter aveva un proprietario che di tasca sua metteva e ripianava 1.200.000.000 in 18 anni di presidenza, e così si va avanti. La Fiorentina arrivò al momento e al punto in cui non fu più in grado di garantire la continuità aziendale. Questo è, ma nel momento in cui Moratti ha cambiato politica, cambiato strategia, probabilmente non ha avuto a disposizione i soldi che ha sempre avuto, come vede anche Moratti è stato costretto a passare la mano, e anche l'Inter certamente si è ridimensionata. È accaduto anche al Milan, da quando Berlusconi ha chiuso i cordoni della borsa. Convocati. Se e quando qualcuno arriverà a poter mettere la seconda, ecco che noi anche ufficialmente potremo mettere la terza per rimarcare la differenza tra noi e gli altri. Grazie. Io non ho capito che cosa voleva dire Andrea Agnelli pochi minuti fa. Ho capito che l'anno prossimo la Juventus non avrà le tre stelle sulla maglia. Però ho capito che la Juve prima o poi le metterà, quindi in un certo senso riconoscendo anche la contabilità ufficiale della federazione, ho capito male. 800 24 00 24, poi domani ne parliamo di sicuro, 14.05 l'appuntamento dalle 14 alle 16, però se qualcuno riesce anche scrivendo 349-238-6666 a spiegarmi che cosa voleva dire il presidente della Juventus, lo ringrazio. Vi faccio sentire Ballardini a proposito di Garcia, la cultura dei sospetti. Ballardini ieri su Catania Roma. Tutto regolare. Siamo in Italia, tutto è regolare. Il mio pensierino me lo tengo per me, e non ho alcun commento da fare, ecco. Non ha alcun commento da fare. Garcia gli ha risposto: altro che non ci siamo impegnati, io ho schierato tutti i diffidati. Parliamo un po' di MotoGP. Ciao Graziano Rossi. Ciao. C'è chi ha scritto oggi che Marquez è ufficialmente il nuovo Valentino Rossi, che potrà arrivare anche ai record di vittorie consecutive che ha fatto Valentino, che questa è una stagione finita, che noia, dico io, se così fosse. Cosa ne pensi? Io penso che il fatto che Valentino stia intanto crescendo di gara in gara, però cercando, leggevo un titolo sul giornale, cercando il sistema per ritornare vicino a Marquez come la prima gara, quindi combattersi il risultato finale magari anche a spalla insieme, no? E questo sarebbe un grande, una grande cosa, un grande bene per lo spettacolo, un grande bene per Valentino, un grande bene anche per me, insomma, che mi piacerebbe molto, e quindi anche per voi, anche per tutti. Credo che questo sia possibile, dipenderà poi dalle piste, dipenderà da quale altra cosa, non lo so, ma io spero che succeda. Sì, la classifica dice Marquez 100 punti, 4 vittorie su 4, Pedrosa il più vicino è a 28, Valentino 39, gli altri sono già praticamente doppiati. Al di là delle nostre speranze, questo è un fenomeno, e la possibilità che questa sia una stagione, almeno per quanto riguarda la corsa al mondiale, una stagione già chiusa, è una possibilità concreta. Tu hai esperienza, te ne ricordi tante di stagioni partite così, anche quando Valentino stava davanti a tutti, andava più veloce, era il più forte, aveva la moto più veloce, non c'è mai stata questa sensazione, forse una volta. Io ti devo dire che la superiorità di Marquez in questo momento va riconosciuta, ed è una superiorità che riguarda l'uomo e la macchina. E quindi bisognerà, da parte di Yamaha intanto, da parte di Valentino, cercare di fare qualcosa, perché Marquez adesso va un po' più forte. Però io non mi dimenticherei la prima gara, quando Valentino ha lottato per tutta la gara con Marquez spalla a spalla. Io non dispero che questo possa succedere di nuovo. Quella gara che ha fatto dire a Valentino, altro che ritirarmi, servirà, proseguo, perché a me piace la lotta, mi piace divertirmi. Non servirà, volevo dirti, non servirà probabilmente a rimettere in discussione il risultato finale, forse no, e quindi questo a Valentino dispiace molto. Però noi che le gare le guardiamo una per una, e il risultato finale poi ci interessa fino a un certo punto, a noi farebbe molto piacere che Valentino riuscisse a ritornargli lì vicino, lì attorno. Ti è piaciuto Valentino ieri? Molto combattivo, ci ha anche provato nei limiti di quello che si può fare oggi per provare a stare attaccati a Marquez, però ci ha anche provato. Ci ha anche provato, non ha sbagliato niente, ha azzeccato una grande partenza e mi è piaciuto molto. Io penso che questa di Valentino, questa strada del ritorno alla competitività dopo un paio d'anni sbagliati e alla sua età, sia una impresa che lui sta portando avanti con una determinazione meravigliosa, mi sembra. Adesso poi aspettiamo qualche altra gara, ecco, prima di cantare vittoria, anche se quest'anno faremo fatica a cantare vittoria, ma una vittoria per Valentino sarebbe quella di stare vicino a Marquez e combattere per il risultato finale come è successo la prima gara. Sì, anche perché poi la notizia è che, tolto Marquez, Valentino è assolutamente competitivo con gli altri, e questo apre poi magari scenari, volendo ragionare anche sulla prossima stagione, se la Yamaha riuscisse in qualche modo ad avvicinarsi ai valori della Honda di Marquez. Per chiudere, Graziano, mi dici una parola su Romano Fenati, Moto3, seconda vittoria consecutiva, qualcuno ha cominciato ad accostarlo a Valentino Rossi, ma credo che questa sia una condanna che ci accompagnerà per anni. A me mi viene un po' da ridere perché vedere questo ragazzino Fenati correre mi dà proprio una grande gioia, perché è determinato come nessun altro e non sbaglia mai, è un ragazzino meraviglioso questo. Poi dopo, adesso non c'è bisogno che andiamo già a pensare a dove arriverà, però credo che già quest'anno stia già pensando seriamente anche al campionato, anche al risultato finale, perché è uno che, pur andando fortissimo, provandoci sempre, sì, è uno che non si butta via, rischia ma non si butta via, sta già ragionando da grande. Sì, non sbaglia, ecco, questo mi sembra una cosa straordinaria, è uno che ci prova sempre e non sbaglia, è meraviglioso questo ragazzino. Sì, davvero una bella scoperta, grazie Graziano. Buona giornata, grazie. Il migliore di oggi, Fabrizio dalla provincia di Pesaro Urbino. Sì, buongiorno. Prego. Senti, io chiamo per questo, ho visto nei giorni scorsi, anche oggi, alcune trasmissioni che parlavano di fatti accaduti nella finale Coppa Italia. Sì. E mi sembravano delle trasmissioni registrate un anno fa, tre anni fa o cinque anni fa, cioè sono gli stessi commenti, le stesse promesse di intervenire e poi fra due o tre giorni nessuno più parla e fino alla prossima, purtroppo la prossima disgrazia che accadrà. Io credo che se non si riesce a risolvere questo problema, o è un discorso di incapacità, cioè chi deve prendere decisioni non è capace di decidere nulla, oppure c'è, cioè, peggio, una convivenza con questi criminali che a qualcuno sta bene che le cose continuano così. Agnelli non voleva far sfigurare le altre società, no, ha voluto rimarcare ancora una volta il disaccordo per l'annullamento dei due scudetti. Ne parliamo domani, io continuo a non aver capito che cosa ha detto Agnelli. Ci fermiamo qui, Franco Piattini, l'autore di questa puntata, Claudia Schiattone in redazione, Roby Scaltritti in regia. Appuntamento domani 14:05 insieme fino alle 16, tutti convocati.